Sei pronto per iniziare? Usa l'icona del microfono o della telecamera per registrarti. Raccontaci chi sei, dove lavori e di cosa si occupa la tua azienda. E se vuoi, puoi anche parlare del tuo tempo libero e della tua famiglia.